Mi ricordo quando giravamo in banda, i negozi chiusi e no dalla serranda. A 16 anni in 4 su una panda. Ora che son cresciuto, zio, quella vita mi manca. Mi manca giocare a pallone fino a tardi, fare gli scherzi agli altri, gli altri darci dei bastardi. Vorrei tornare a quei tempi senza pensieri. Ora che sono grande sono pieno di problemi. Mi sembra ieri che giocavamo a guardie e ladri. Nessuno voleva mai fare la guardia. Ora in qualche modo siamo tutti dei ladri. Ma a fine mese la paga non basta. Questa vita è bastarda, bastarda. Abbiamo toccato il fondo, io e te amici fino alla tomba. Ti auguro tutto il bene del mondo. Sta vita va vissuta fino in fondo. Ed è per questo che ho toccato il fondo. Io non voglio i beni del mondo, ma ti auguro tutto il bene del mondo. Sta vita va vissuta fino in fondo. Ed è per questo che ho toccato il fondo. Io non voglio i beni del mondo. Eravamo fieri del nostro quartiere, tutte le sere in giro a fumare e a bere. Poi abbiamo fatto un sacco di sbagli che non cancellano il patto che abbiamo fatto a 13 anni. Eravamo fieri di quello che facevamo, le tipe le usavamo, di amiche non avevamo. Pepite su un divano, bruciati gli anni migliori in troppe notti, ma noi ci divertivamo. In paranoia la dogana di Lugano, i giri in auto pazzi come fossimo a Misano. Le tipe che ci siamo passati, le giornate sopra i prati. Quando ci siamo dati, quando siamo scappati. Questa vita è bastarda, bastarda. Abbiamo toccato il fondo, io e te amici fino alla tomba. Ti auguro tutto il bene del mondo. Sta vita va vissuta fino in fondo. Ed è per questo. Io non voglio i beni del mondo, ma ti auguro tutto il bene del mondo. Sta vita va vissuta fino in fondo. Ed è per questo che ho toccato il fondo. Io non voglio i beni del mondo. Soldi spesi, poi quelli persi, non un po' diversi, ma con gli stessi. Non ci ha diviso niente, manco da sbarbati. Due vite unite dai problemi che ci siamo procurati. L'abbiamo affrontati sempre tutti insieme, spalla a spalla, schiena contro schiena, chi ci tiene? Mai nessuno, insieme i numeri uno. Ci rompiamo il culo, ma noi abbiamo un futuro da portare avanti, dei pensieri assai pesanti. Il sogno dei contanti, una casa e una famiglia da vantarci. Una vita di merda ma dignitosa. Più scrivo più penso alla stessa cosa. Questa vita è bastarda, bastarda. Abbiamo toccato il fondo, io e te amici fino alla tomba. Ti auguro tutto il bene del mondo. Sta vita va vissuta fino in fondo. Ed è per questo che ho toccato il fondo. Io non voglio i beni del mondo, ma ti auguro. Sta vita va vissuta fino in fondo. Ed è per questo che ho toccato il fondo. Io non voglio i beni del mondo.